Ed eccoci qui, Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano, insieme fino alle 18. Can be against us. If that is for my people, I don't know who can fight, who can fight to be my enemy. My Africa want to be free. Oh, Africa, Africa, Africa want to be free. Mama Africa, Africa want to be free. As I know your system is a block against my people, but if you be for us, nobody can be against us. If that is for my people, I don't know who can fight, who can try to be my enemy. My Africa want to be free. Allora cominciamo con le nostre selezioni per questo sabato e cominciamo con una novità, l'ultimo album di Baseku Kuyate e il suo gruppo Ngonimba, Ba Power, l'ultimo album, e Baseku Kuyate viene dal Mali ed è uno dei musicisti che si è affermato recentemente con la sua bravura a suonare questo strumento che si chiama il ngoni, uno strumento che lui ha cominciato a frequentare già all'età di 12 anni. Lui suona insieme alla moglie e l'ultimo album ha dato ancora di più un nuovo salto in avanti all'utilizzo, alla capacità soprattutto di espressione di questo strumento. L'ultimo album che mi metto si chiama Ba Power, il brano che voglio far ascoltare si chiama Musofanga, il potere delle donne. E questo era il brano tratto dall'album di Basse Cuculi atteso in Gonimba. La voce che avete ascoltato è quella di Ami Sachko. Ebbene, lui suona gli ngoni, che è uno strumento che ha origine appunto nell'Africa dell'Ovest ed è fatto dal legno di calabash, ed è uno strumento che veniva, soprattutto il djeli ngoni, veniva suonato dai griot durante le cerimonie e in occasioni speciali, ed è uno strumento appunto che è stato, c'è anche un goni che viene suonato dai cacciatori, in questo caso lui, Basse Cuculi a te, suoni il djeli ngoni, è uno strumento appunto che ha moltissime potenzialità e che è riuscito Basse Cuculi a te proprio ad esplorare. E a proposito di suoni che hanno a che vedere con strumenti a corda, la chitarra suonato da Lobby Traoré, bene, ve la faccio ascoltare in questo brano registrato dal vivo nel 1995 al Bar Bozo a Bamako, insomma un brano che si intitola Sigi Ngoyo Son Fo e che vi fa insomma capire come l'abilità di Lobby Traoré nel suonare la chitarra. Yeah, what up, man? Traoré al Barbozo nelle notti del Barbozo. Lobby Traoré, che è uno splendido chitarrista, morto troppo presto, a soli 49 anni nel 2010, e proprio qua a questo Barbozo era il periodo in cui i primi anni della democrazia in Mali, e quindi la gente si riuniva in questi luoghi, fra i quali appunto il Barbozo, che era un luogo diciamo così non molto glamour, quindi ci venivano gente che lavorava dopo il lavoro a sentire appunto i pezzi dal vivo, a ballare, a sentire questa energia di questo artista molto popolare anche per i suoi testi, per le sue critiche allo stato di cose che viveva, e anche per il suo modo, attraverso la chitarra, di riscoprire le radici della musica bambara. È colto appunto con questa sua potenza. Lui era nato in un paese, in un piccolo villaggio che era vicino al fiume Niger, e proprio al fiume Niger ha dedicato il suo album Gesù Morikante, un album River String uscito da poco, che insomma ha avuto molto molto interessante. Lui è praticamente il fratello più giovane di Kante Manfila, uno dei chitarristi del gruppo Les Ambassadeurs, che è stato uno dei gruppi in cui ha suonato Salif Keita, Sekouba Bambino, che è stato uno dei gruppi più importanti della scena musicale del Mali. Ebbene, Gesù Morikante ci dà proprio un'idea della capacità attraverso la chitarra di ritirar fuori le tradizioni maninché in questo luogo che si trova al confine fra la Guinea e il Mali, attraversato appunto dal fiume Niger. Ce lo ascoltiamo in questo brano insieme a Cucù. Oh, Gesù morì Canté con questa sua splendida chitarra. Il brano è Cucù dal suo ultimo album River String Maninka Guitar. 16:57 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Il contatto telefonico come sempre è 06 49 17 50. Allora rimaniamo ancora in questa zona di confine fra il Mali e la Guinea, dove incontriamo Tani Diakité con il suo Kamalengoni. È uno strumento che viene dalla regione del Vassolu e che è uno strumento che veniva usato anche qui dai cacciatori del Mali, perché con la sua è una sorta di antenato del banjo. Con la sua musica, con le sue sonorità di trance, cercavano di attirare gli spiriti degli animali che loro cercavano. E allora lui ce lo ascoltiamo col suo gruppo The Afro Funk Star in questo brano che si chiama Ungo Lumumba. Oh, Shake Tidiane Sek, il brano è Sibalan Kone. Amadou Tidiane Sek ha dovuto aspettare più di 50 anni per produrre e registrare a suo nome e ha lasciato il suo segno nei gruppi che ha frequentato, fra i quali sicuramente quello importantissimo della Super Rail Band, che insieme a Morikante e a Salif Keita negli anni 70. Lui viene da Ségou, una splendida città del Mali, bagnata anche lei dal fiume. E dal Mali ce ne andiamo a Dakar, in Senegal, dove all'inizio degli anni 70 l'orchestra de Sahel suonava 6 giorni su 7 e animava le serate del Sahel, che era il principale club della capitale senegalese. E loro hanno suonato insieme a Idrissa Diop, che era il cantante e il percussionista, e a Dakar erano una vera e propria istituzione, un'orchestra composta dai migliori musicisti della città. Hanno fatto un disco a 30 anni dal loro ultimo concerto, un album che si chiama Le Sahel, la leggenda di Dakar, con la partecipazione appunto dei compagni dell'epoca, fra cui appunto il sassofonista Tierno Coité e Cheikh Diané Tall. E allora ce li ascoltiamo, questo splendido gruppo Le Sahel insieme a Idrissa Diop, in un classico della musica senegalese, Yae Boye. Thank you. languida interpretazione di questo brano Yae Boy da parte dell'orchestra dell'Essael, e qui insomma ritorniamo a questi ritmi che intorno agli anni 50-60 hanno movimentato le notti di Dakar. E allora, tornando a questo incrocio fra la musica latina e la musica africana, c'è un progetto Afrocubism, un progetto molto interessante di cui è stato ideatore Eliades Ochoa, uno dei social club, del Buena Vista Social Club, quello col cappello e la chitarra, che ha suonato anche, ha fatto anche un album insieme a Mano di Bango, che quindi è sempre stato attento alle sonorità che provengono dall'Africa, insieme ai migliori musicisti del Mali, da Djelimadi Tunkara a Kassemadi Diabaté. E allora proprio questo brano che è interpretato da Kassemadi Diabaté, da Eliades Ochoa, vi voglio far ascoltare, il brano che si chiama Benzema. Llamada la sin salir. di Diabaté, questo suo Benzema insieme a Eliades Ochoa. All'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Afrocubism è l'album. E allora 17:18, andiamo ancora avanti e ce ne rimaniamo in Mali, rincontriamo Toumani Diabaté e con la sua Symmetric Orchestra, un album Boulevard de l'Independance che è il primo album che la Symmetric Orchestra ha registrato fuori dal Mali e raccoglie i brani che suonavano tutti i venerdì sera in una jam session al club di Bamako, Logon Club, dove arrivavano musicisti da tutte le parti dell'Africa occidentale, fra cui c'era anche Kassemadi Diabaté, Soumaila Kanouté, Morissanda Kamisoko. E allora Toumani Diabaté che ci fa incontrare la salsa e la musica africana, African Challenge. La sua Symmetric Orchestra. questa era la sua cora. Radio Africa 87.9 e la modulazione di frequenza in Radio Onda Rossa. C'è un'altra grande orchestra, un'orchestra senegalese che si chiama l'Orchestra Baobab, che è maestra in questi ritmi, è nata nel 1970 e anche lei si chiama così perché suonava in un club Baobab di Dakar, e questa orchestra fece più di 20 album fra il 1970 e il 1985, poi di fronte all'irruzione del Mbalax, questo genere musicale che veniva ballato e suonato dai giovani, un po' perse smalto e visibilità, ma poi Youssou N'Dour con la sua label World Circuit la ritrovò e la ripubblicò intorno al 2001. Loro fecero altri dischi, una sorta di Buena Vista Social Club senegalese, perché erano un po' vecchietti ma molto in forma, e parliamo di gente come Barthélemy Tissot, che è il leader, il chitarrista, Bala Sidi Bé, Rudy Gomis, Diengue e Sissoko. E allora ce li ascoltiamo in questo brano che si chiama Papendiae, un brano tratto dal loro album Made in Dakar. Loro vengono dalla Casamance e sono stati il primo gruppo che riuscì in qualche maniera a portare sulla scena i ritmi e le sonorità della Casamance. Il brano è Papendiae. Ah, papaya, yo, baby. Papa Ndiaye dell'orchestra Baobab. Questo è un brano che risale al 1968 ed era un brano tradizionale cantato dai griot. Era la prima volta che un gruppo musicale moderno, diciamo così, l'aveva reinterpretato, ed ebbe molto successo e anche colpì molto, perché era abbastanza raro che un gruppo musicale contemporaneo poi riprendesse brani tradizionali. Papa Ndiaye è il nome di un re del Senegal, Papa Ndiaye Ndene, e appunto a lui è dedicato questo brano. Si sono fatte quasi le 17:30, siete sempre all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Africa. Vi ricordo il contatto telefonico 06 49 17 50 e rimaniamo su queste sonorità. Lui si chiama Laba Sossè, è nato in Gambia, ma come molti altri artisti ha cominciato a lavorare in Costa d'Avorio, che era il centro vitale della produzione della musica africana. Sossè si è dedicato a questo incontro con la musica cubana già con un famosissimo gruppo che si chiamava la Star Band di Dakar, e parliamo dell'inizio degli anni 60. Allora Laba Sossè ce lo ascoltiamo in questo brano che si chiama Sonneate. Que se llama sonsoneate, son. Cómo sonsoneate para bailar el son, yo mirando sonsoneate para bailar el son. Muchachas y bailando y gozando, hey, un ritmo que se llama sonsoneate, son. Se llama sonsoneate, son. Laba Sossè. Son el son cubano de Senegal. Radio Africa. Patria mía, en diría que tú sufres soledad ante el blanco. Di Dakar De Go, il brano è un gruppo nato nel 92 fondato da Mapate James Gadiaga, Ebbene, era un veterano di molti gruppi, fra i quali gli Halam e gli Star Band, Sissé, che lavorava, aveva un negozio per riparare le cose elettroniche, formava un gruppo insieme a questi giovani musicisti che venivano tutti da una regione del TS, i Super Cayor, cominciarono a suonare in questo stile che si chiama appunto Salsa Mbalax, e lo stile di cui avevamo parlato prima a proposito dell'orchestra Baobab, uno stile molto amato dai giovani, che poi fu seguito da gruppi come Di Africando e Pape Fall. Ebbene, loro riuscirono insomma a dare anche alla salsa una nuova vitalità a questa interpretazione, e quindi insomma un gruppo molto interessante, i Super Cayor de Dakar. 17:39 all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 e la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico, questa è Radio Africa. E allora dal Senegal ce ne andiamo a Capo Verde, dove incontriamo Cesaria Evora e Lura che Maria Jesus Pina Sonson, meglio conosciuta col nome di Lura, è una ragazza portoghese ma di origine capoverdiana, che ha sempre mantenuto i legami con la sua terra e è riuscita a mescolare i generi come per esempio il jazz con la morna, il funanà e il batucchi. E lei appunto aveva cominciato addirittura a 17 anni quando era corista e ballerina per una cantante Zouk a San Tommaso e Principe, e poi dopo piano piano insomma tornando a Lisbona cominciò a suonare in tutti i generi della musica capoverdiana e interpretarli con la sua splendida voce. Ebbene, ci ascoltiamo insieme alla mitica Cesaria Lura in questo brano. Na adolescência, um tava a ficar na frente do espelho, pra improvisar o microfone, pra cantar moda boa. E moda boa, moda boa, com crer cantar, e ma boa, com crer prender, pra cantar moda boa. Na minha vivência, já me conchei, gente, já me conchei muito da realização em dúvida. Canta caber, canta minha terra. Essa é minha vivência, quer partilhar-me com minha gente, partilhar-me o mundo inteiro. História de um povo, história de uma vida. É moda boa, moda boa, com crer cantar. É uma boa, com crer prender. Pra cantar, moda boa. Boa e divina, anjo da guarda, santo bonon. Boa vivência é uma lição, é orgulho do nação. Boa nome é morna, é serenata de um creteu. Que o mar azul coiove nascer, solta quem tá nos coladeira. Graça de cantar é uma missão que vou ter de cumprir. Pouca escolhi, Deus é que dá bem. Dignifica esse nome. Essa é minha vivência, querer partilhar-me a toda minha gente, partilhar-me ao mundo inteiro. História de um povo, história de uma vida. É moda boa, moda boa, com querer cantar. É uma boa, com querer prender. Pra cantar, moda boa. É moda boa, com crer cantar. É uma boa, com crer prender. Pra cantar, moda boa. É moda boa, com crer cantar. Modabo, lei è Cesaria, Cesaria Evora insieme a Lura. 17:44, Radio Africa, Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. E da queste isole che sembrano gettate lì a caso in mezzo all'oceano, ce ne andiamo in quel subcontinente che è l'Angola. Siamo nel 1968 in Angola e c'è ancora il tallone del colonialismo portoghese, ma si cominciano a formare nei musseche, nei quartieri popolari di Luanda, questi gruppi che poi esplodono, bruciano di energia creativa, soprattutto fra il 72 e il 73. E allora Africa Rhythmus, questo gruppo formato nel 1968 da percussionista e cantante Kirito, che è un gruppo che rinnova la tradizione Kikongo, Kibundu è anche la lingua con cui loro parlano, una sorta di creolo. E allora mischiato al portoghese, gli Africa Rhythmus, ce l'ascoltiamo in questo brano Agarren. Africa Rhythmus, Agarren. Allora rimaniamo in Angola, dove incontriamo e non potevamo non incontrarlo, parlando della musica angolana, Bonga Kwenda, al secolo José Adelino Barceló de Carvalho. Ebbene, lui, classe 1943, è uno dei maggiori interpreti della musica angolana, di quel genere che si chiama Semba. E lui aveva cominciato, era andato in Portogallo, dove ha cominciato a fare atletica, era addirittura recordman dei 400 metri, insomma un atleta importante. Poi abbandonò l'atletica nel 1972 per concentrarsi sulla musica, e divenne molto famoso in Angola e così anche in Portogallo. E poi, dopo la rivoluzione dei garofani nell'aprile del 74, divenne anche un portavoce degli immigrati dall'ex colonie portoghesi. Ma durante il il regime, quando l'Angola era ancora una colonia portoghese e in Portogallo c'era ancora il regime di Salazar, il suo Estado Novo, e allora Bonga cominciò ad essere un portavoce dell'indipendenza, della lotta contro il colonialismo, tant'è che fu espulso dall'Angola nella fine degli anni 70 e anche dal Portogallo, se ne dovette andare a Rotterdam in Olanda, quando adottò il nome appunto di Bonga Kwenda. Bonga, ce lo ascoltiamo con la sua voce roca ma affascinante in questo brano che si chiama Kambua. Ai Kambua non chora so gobi, so val che tem Kambua sta a soffrir. Ai Kambua non chora so gobi, so val che tem Kambua sta a soffrir. O cão da Nguimbi foi convocado, ele come muito, nós sei que não lhe damos. O cão da Nguimbi convocado, ele come muito, nós sei que não lhe damos. Ah. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua está a sofrer. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua está a sofrer. É no Museque, com muito barulho, Kambua vira lixo no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Kambua vira lixo no meio do entulho. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua estás a sofrer. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua estás a sofrer. Passante na rua, até que dar na perseguição, Kambua que veio lhe salvar. Passante na rua, até que dar na perseguição, Kambua que veio lhe salvar. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua estás a sofrer. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua estás a sofrer. O cão do quem, muito mimado, e come bem, olha, é bem tratado. O cão de quem, muito mimado, e come bem, é bem tratado. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua estás a sofrer. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua estás a sofrer. Perto daí, Kambua sovado, roubo biteu, foi apanhado. Perto daí, Kambua sovado, roubo biteu, aí foi apanhado. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem, Kambua estás a sofrer. Ai, Kambua não chora, só gobi, só vale quem tem. Bonga, Kambua, in questo brano c'è un, a un certo punto lui dice nelle Museche, c'è molto barullo, molta confusione nei Museche. Le Museche sono le bidonville di Luanda, che si chiamano, che in Kibundu vuol dire quartiere rosso, perché in ragione del colore della terra che viene utilizzato per costruire le abitazioni, e proprio nelle Museche cominciò appunto in quegli anni il barullo, la confusione, la creazione di questi gruppi musicali, e anche si cominciò insomma a gettare le basi di quella che poi sarà la guerra di liberazione dal regime coloniale portoghese. 17:53, questa è Radio Africa e voi siete sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto telefonico 06 49 17 50. Facciamo un salto, ce ne andiamo in Nigeria, lui si chiama Tony Allen, e Tony Allen sarà questa sera a Roma, in un concerto che insomma se volete sapere dove sta, chiamate pure, ve lo diremo. E allora vi faccio ascoltare Tony Allen in questo suo ultimo brano, in questo ultimo album, Film of Life. Il brano si chiama Ire Homo. Ultimo album, Film of Life, ed è proprio un bel film la vita di Tony Allen, batterista di Fela Kuti con i Kula Lobitos, e poi per conto suo. Allora 17.58 in attesa dei Soul Peanuts, sempre sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, qualche notizia dall'Africa, un'Africa che si muove, un'Africa che si muove perché migliaia di persone hanno manifestato sabato a Niamey, capitale del Niger, contro il regime che accusano di colpire le libertà e di gestire in maniera disastrosa il paese. I manifestanti, soprattutto giovani, che hanno risposto all'appello di 38 associazioni locali hanno fatto una marcia fino al Parlamento al grido di abbasso il governo, abbasso Bolloré. Il pescecane francese, l'investitore francese che ha molti interessi in Africa, ma non solo in Africa, è un personaggio che adesso sta piano piano entrando anche in altre situazioni, anche qua in Italia con Mediobanca per esempio, e quindi e soprattutto ha molti interessi per quanto riguarda anche la gestione dell'acqua e dell'elettricità in molti paesi dell'Africa. Quindi abbasso Bolloré, abbasso Areva è la società francese che si occupa dell'uranio, perché il Niger è un paese che ha dei grandi giacimenti di uranio e Areva sfrutta in maniera selvaggia queste risorse, non preoccupandosi naturalmente delle condizioni di lavoro e della salute degli abitanti. Ultimamente hanno sottoscritto anche un accordo con il governo molto peggiorativo per quanto riguarda le condizioni, e i manifestanti gli davano appunto abbasso Bolloré, abbasso Areva, patria o morte vinceremo. E numerose manifestazioni numerosi manifestanti avevano un drappo rosso intorno al collo, alcuni avevano anche dei cartelli molto critici che affermavano che il paese appunto va male, che protestavano contro i tagli continui dell'elettricità e ancora per la concessione dei diritti doganali che vanno a colpire e affamare i nigerini, anche perché appunto c'è stato un accordo con la società di Bolloré per quanto riguarda la gestione di alcuni importanti luoghi, di alcuni importanti posti dove c'è la dogana a Niamey. Questo monopolio ha portato a un innalzamento significativo delle tasse, cioè la privatizzazione che è stata fatta di certi servizi, per cui anche i servizi doganali in Niger a società che fanno capo a Bolloré, hanno portato come conseguenza un abbassamento della qualità dei servizi e un innalzamento delle tasse e delle spese per i cittadini nigerini. E quindi i sindacati dei commercianti domandano l'annullamento della convenzione siglata nel 2014 che accorda appunto al gruppo francese Bolloré il monopolio della manutenzione di questi depositi, di questi luoghi di passaggio della dogana. La capitale e le grandi città del paese sono stati oggetto recentemente anche di prolungati tagli, blackout, anche a causa della difficoltà della fornitura elettrica con la Nigeria, il paese là vicino, e inoltre c'è stato questo accordo con Areva, un accordo che ha sicuramente danneggiato gli interessi del paese, è un accordo che oltretutto ha previsto dei licenziamenti, quindi i lavoratori delle miniere che sono gestite da Areva hanno manifestato in questi ultimi giorni. Insomma, in Niger si muovono un bel po' di cose. È stato anche arrestato Moussa Shangari, una delle figure della società, una delle maggiori figure della società civile, per attentato alla difesa nazionale. C'è quindi una deriva autoritaria del governo e queste 38 organizzazioni della società civile hanno protestato appunto manifestando a Niamey decine e decine di giovani. Anche in Burundi si continua a manifestare, secondo alcuni testimoni oltre 200 persone sono scese in piazza venerdì 5 e hanno cercato di raggrupparsi all'altezza di Musaga, uno dei focolai della contestazione contro il presidente Nkurunziza, che È appunto una contestazione che sta agitando Bujumbura dal 26 aprile. Sono stati dispersi da tiri della polizia e uno dei manifestanti è stato ferito e si dice che sia morto, secondo delle fonti della Croce Rossa. E secondo altre testimonianze, circa fra i 200 e i 300 persone si sono raggruppate venerdì scorso anche in un altro quartiere, Sibitoke, un'altra piazza forte dell'opposizione, e quindi con un mese di manifestazioni quasi quotidiane nel tentativo di fermare il presidente Nkurunziza, che ha intenzione di presentarsi per la terza volta alle elezioni che si dovrebbero tenere a fine giugno, manifestazioni che fino adesso hanno visto la morte di quasi 30 manifestanti, un tentativo di colpo di Stato che poi è abortito, nonostante le pressioni internazionali, Nkurunziza continua a mantenersi in questa volontà di presentarsi per la terza volta e naturalmente agitando i fantasmi di quella che è stata la guerra civile burundese. Des corps étranges, le temps des retrouvailles, à l'heure du défilé, j'aime désobéir, prier nu avec une fille de la balle, au corps saupoudré d'or pâle. Nous sommes mêlés d'archanges, pistils d'un cosmos, semences d'un cheval cambré, les yeux qui s'émerveillent. Je n'aime pas les bengales des fêtes nationales. Je préfère cette silhouette blanche sur une toile de Chagall. Le temps qui passe sans rien dire. Collectionner des abraxas, le baron samedi du carnaval. La Marseillaise en créole. Passe sans rien dire. Les ports abondants d'écriture de savoir. Place malade, dreadlocks dans une passe d'Occitanie. La Marseillaise en créole. 18.09 all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza. Allora so, finisce qui Radio Africa in attesa di Sol Pinas e il suo jazz, però intanto noi continuiamo con un po' di selezioni. Loro erano i Lojo. Il Lojo è un gruppo francese che nasce nel 1982, provengono da Angers, e il brano che ci siamo ascoltato è la Marseillaise en Creole, una Marseillaise insomma un po' particolare. Rimaniamo in questo ambito, lui si chiama Bernard Lavillier. Bernard Lavillier è un cantautore che riesce a mescolare la canzone francese d'autore con le sonorità reggae, e allora il brano che ci ascoltiamo è Balaise. En ces temps-là, les amis, je me prenais pas la tête. J'avais des potes au FMI, on faisait la fête. Il y avait des pays tropicaux qui se couvraient de dettes, qu'on rachetait à crédit les entreprises avec. On vivait tous à Miami, c'était carrément le paradis. Le développement garanti, la balaise, Hugo Chavez. En ce temps-là, mes amis, pour les matières premières, on se faisait pas de soucis, on achetait des terres. Les républiques démocratiques étaient toutes bananières. Les conseillers économiques venaient du secret militaire. On vivait tous à Miami, c'était carrément le paradis. Le développement garanti, v'là le balèze, Hugo Chavez. C'est qui ce gros bonhomme assis sur ses pipelines qui vient reprendre nos accords et nous couper les vannes? C'était ma part d'or noir, mon Venezuela, mais mon business s'arrêtera pas à Coca-Cola. C'est qui ce gros bonhomme qui dit non aux USA et qui en prime sert la pomme des bosses de Cuba? Faudrait qu'il se rende dans la trogne, que ça se passera pas comme ça. Si Miami le cogne, il finira comme Noriega. Faut qu'on le fasse tomber de sa chaise, faut qu'on le fasse tomber de sa chaise, Hugo Chavez. Consultant des multis m'ont dit, faut faire avec. On peut pas être de partout, chez les Afghans, les Ouzbeks, les Irakiens, le Hamas et les Israéliens, les Talibans, les Russes et les Indonésiens. On était à Miami et ça sentait le roussi. Nationalisé par qui? Attention, v'là le balèze, Hugo Chavez. Pendant que tous les GI tournaient sur l'axe du mal, le pétrole et le cuivre profitaient pour se faire la main. Les émeraudes, le bauxite, le fer, le zinc, l'or, l'uranium, ça devenait un truc de dingue. On a vraiment rien compris. On se planque, Miami. Je vous ai pas vu, j'ai rien dit. V'là le balèze, Hugo Chavez. V'là le balèze, Hugo Chavez. C'est qui ce gros bonhomme assis sur cette pipeline? Hugo Chavez. Reprenons nos accords et nous couper les vannes. La balèze. Faut qu'on le fasse tomber de sa chaise, Hugo Chavez. Faut qu'on le fasse tomber de sa chaise, v'là le balèze. C'est qui ce gros bonhomme qui dit non aux USA, Hugo Chavez. Et qui en sert la panque des bosses de Cuba, v'là le balèze. Faut qu'on le fasse tomber de sa chaise, Hugo Chavez. Faut qu'on le fasse tomber de sa chaise. Allora, Bernard Lavillier e Trio ci ricordavano un po' di Hugo Chavez, come dicono alla francese, ma anche Didier Awadi, che è uno dei fondatori dei Positive Black Soul, uno dei gruppi più in voga della scena hip hop senegalese, ha fatto un brano che si chiama Ma Revolution, che è proprio dedicato alla rivoluzione bolivariana. E a tutti i rivoluzionari, naturalmente. Chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Transparent, ma révolution. Elle me vient de Thomas Sankara, me vient de Gandhi. Elle me vient de Nelson Mandela, ma révolution. C'est un hommage à Samora. Elle me vient de Samori, s'analyse dans le Guevara, ma révolution. Elle me vient des Mao Mao, de Mars à Lénine. Pour la Chine, y a même du Mao, ma révolution. Au Bénin, elle vient de Béansin. Je la quitte, je la répète, elle est au musée, ma révolution. Elle porte un nom, Franz Fanon. D'année de la Terre, Aimé Césaire, quel est son nom, ma révolution. Malcolm X, Martin Luther, le continent va mal, je le sais pourquoi le terre, ma révolution. Pas mes coups, ma panafricanisme. Et je me bats contre l'anticamitisme, ma révolution. Je suis un activiste musical, rebelle et marginal, Awani, super radical. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes frères sur le continent qui lutte. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes soeurs sur le continent qui lutte. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes frères, tous les militants qui luttent. Ma révolution. Ma révolution prend du sens dans le Congo pour les chégués chétifs qui traînent pour le Congo. Un pays riche que les imbéciles ont divisé. Reste là à diviser l'histoire, reste à réviser ma révolution. Et les solidaires des Kanaks, des aborigènes ou bien des Indiens Arawak. Ma révolution, c'est pour tous ces morts de Guinée. Tomber sous les balles pendant que l'opinion s'est débinée. Ma révolution,